Giovedì 15 novembre del 2012, 87.900 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa e siamo all'appuntamento con il cinema, visionario ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più la scaletta la trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni, visionari. Con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani, scusate, di oggi, giovedì 15 novembre. Nostre indicazioni, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, la programmazione per quanto riguarda i film sul piccolo schermo della settimana e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra rassegne, festival e programmazioni televisive e poi il link per riascoltare la puntata precedente e le puntate del 2012. Ritroviamo sulle nostre frequenze in collegamento Claudio Giovannesi, regista del film Lì agli occhi azzurri, presentato al Festival del Cinema di Roma, in uscita oggi in sala. Claudio, ben ritrovato. Grazie, è un piacere. È sempre un piacere anche per noi. Allora Claudio, ci eravamo sentiti, se non sbaglio, l'ultima volta per Fratelli d'Italia, un documentario girato ad Ostia in un istituto scolastico. Questo film, se non sbaglio, rappresenta un proseguimento lungo quel percorso. Esattamente, questo film nasce in conseguenza di Fratelli d'Italia. In Fratelli d'Italia, che è un film in tre episodi, avevo trovato il protagonista di questo film, cioè Nader, un ragazzo egiziano nato ad Ostia, quindi un italiano di seconda generazione, e la sua storia, che nel documentario era solo accennata, e ho sentito il bisogno di proseguirla nel film, perché è una storia estremamente classica, una storia di amore contrastato, perché Nader, che ha 16 anni, ha una fidanzata italiana e sogna, insomma, è innamorato di lei e vuole fare l'amore con lei come qualsiasi adolescente, ma tutto questo è ostacolato dai genitori che sognano per il figlio un matrimonio con una ragazza egiziana, e questo è quello che Nader vive realmente, quindi una storia d'amore contrastata che però allo stesso tempo è emblematica, perché vive oggi nel presente del 2012 ed è l'emblema della società multiculturale, e quindi su quello ho voluto fare un film. Nader scappa di casa per una settimana, e nella realtà lui è scappato di casa per 3 mesi a 16 anni, scappa di casa per una settimana proprio per dimostrare ai genitori, per manifestare in maniera chiara il desiderio che ha di essere uguale a qualsiasi altro adolescente italiano, e io lo seguo mattina, pomeriggio, sera e notte, ricostruendo la sua esperienza. La cosa che rende complesso poi il personaggio, il film, che noi abbiamo presentato così, visto che si tratta di un conflitto che Nader vive realmente, è che lui, il desiderio che lui ha è di avere una ragazza italiana, allo stesso tempo è un divieto che lui impone alla sorella, quindi vive questa scissione ancora irrisolta su cui abbiamo costruito il paradosso del film. Ecco, infatti proprio questo punto volevo sottolineare rispetto proprio anche al titolo, che sottolinea una identità contraddittoria nello specifico soprattutto sul riguardo il rapporto con le donne, da una parte la fidanzata, e questo va contro i precetti dell'Islam che lui dovrebbe seguire in teoria, e invece il rapporto con la sorella, che si manifesta in una maniera che va contro invece quelle che sono le conquiste delle donne, cosiddette conquiste delle donne nel mondo occidentale. Ecco, questo, la contraddittorietà dell'identità si manifesta, almeno a quello che ho, a mio modo di vedere, soprattutto in questo rapporto con le donne. E in quali altri elementi, secondo te, che hai voluto anche rendere dal punto di vista cinematografico? Esatto, ma il film si basa sulle contraddizioni di Nader. Innanzitutto è un film su un adolescente, non è un film sull'Islam. Questo è quello che in primo luogo mi attrae poi del personaggio. Cioè, racconto un adolescente di oggi, quindi racconto l'Italia del futuro. Raccontando l'adolescenza oggi, per forza di cose, devo raccontare la multicultura, perché la società multiculturale è qualcosa che si deve realizzare, come si è già realizzata nel resto dell'Europa. A quel punto, raccontando un adolescente così, per rispondere alla tua domanda, la contraddittorietà è emblematica, perché è la contraddizione tra la cultura di provenienza, cioè quindi la grande cultura islamica, e la cultura di adozione, siccome siamo in periferia, nell'Interland, che è la non cultura della società dei consumi. Di conseguenza, per usare parole della sociologia, c'è uno scontro tra come dire, integrazione e omologazione, ma alla fine è un racconto di un adolescente, la storia di Pinocchio e Lucignolo anche, un ragazzo egiziano nato a Roma che vive la strada, educato con la strada, che scappa di casa con il suo amico italiano, che è il modello occidentale a cui ambisce e da cui poi si discosta nel corso del film. Senti Claudio, tra l'altro è girato ad Ostia, dove tu eri stato in quell'istituto, e gli istituti di Ostia in particolare, mi parlavi di una presenza quasi maggioritaria dei cosiddetti italiani di seconda generazione. Sì, quello è un territorio molto più, come si dice, multietnico, molto più della capitale, perché le case costano meno. Quindi ci sono tutte le etnie che si incontrano e si scontrano: i rumeni, gli egiziani, il Maghreb, tutto quanto, l'Africa, il Bangladesh, la Cina. Quello è, insomma, è un territorio molto ricco e molto complesso da quel punto di vista. Sì. Nader diventa emblema di tutto questo, attraversa per una settimana questo limbo che è Ostia d'inverno, il mare d'inverno, che è quello che la rende poi interessante cinematograficamente. Poi avevo Daniele Cipria, la fotografia, con cui abbiamo fatto un lavoro proprio dedicato a questo, a raccontare il movimento dei personaggi, gli ambienti di Ostia con la luce naturale, il freddo, far passare il freddo con la luce nelle immagini. È stato un lavoro che serviva a restituire la verità di un territorio. Noi abbiamo utilizzato per questo film il vissuto dei ragazzi che abbiamo incontrato, conosciuto. Tutto quello che c'è nel film è vero, le loro storie d'amore, le vicende microcriminali. C'è stato più un lavoro di scoperta anziché di invenzione. Cioè, l'invenzione era vietata perché volevamo restituire la realtà di quella generazione, senza condannare, senza assolvere, presentando quello che è quel tessuto sociale, quei sentimenti, la poesia, anche la scorrettezza. Ci sono delle scene molto dure, però velate sempre di un'innocenza che portano dietro questi ragazzi, che sono adolescenti. Se fossero stati adulti, le scene che ci sono nel film sarebbero irrappresentabili: una rapina, una prostituta, insomma, una dimensione illegale che loro vivono perché la conoscono. Non sono ragazzi che stanno davanti al televisore a vedere Amici di Maria De Filippi. La mia conclusione è che questa educazione, l'essere, il vivere la strada in maniera così giovane, è un limite, per carità, ma può essere anche un privilegio, dipende da come se ne esce. Ecco Claudio, questa tua risposta in parte risponde anche a una domanda che volevo farti. Intanto non ti avevo fatto i complimenti, il film l'ho visto all'anteprima stampa, è stato seguito da applausi, e insomma è stato apprezzato. E, rispetto, ecco, alla realtà di cui parlavi, la mia curiosità era: ci sono delle forzature drammaturgiche nella realtà che rappresenti, oppure ha una sua il proposito, proprio l'obiettivo, ma sin dalla scrittura, era raccontare quello che succedeva realmente. C'è una pretesa di stare vicino ai fatti, alle cose che accadevano, alla plausibilità di quello che raccontavamo, non inventare nulla. Non era un lavoro che facevamo sulla scrivania, noi li frequentavamo, io lo sceneggiatore, tutti i pomeriggi ci vedevamo alla stazione di Castelfusano e prendevamo anche informazioni. Cioè, molte scene, quasi tre quarti del film, delle scene viste sono successe o a loro in prima persona o ai loro amici. Quindi, e tutto quello che riguarda la dimensione familiare di Nader è vera, perché là c'è stata una cosa molto delicata. Poi tu ti ricordi il documentario. Io ho chiesto a Nader e alla fidanzata e ai genitori di Nader di mettere in scena loro stessi. Quindi loro sulla scena, sullo schermo, portano in maniera cosciente, a differenza del documentario, che invece li segui dei personaggi che devono scordarsi dalla presenza delle telecamere. Invece nel film loro portano in maniera cosciente i loro conflitti, le loro relazioni, dando una grande prova di umanità e di generosità, perché il problema che loro vivono, cioè il figlio innamorato di una ragazza italiana, il figlio che si ribella perché vuole frequentare questa ragazza come ogni altro adolescente, queste liti estenuanti che loro fanno quotidianamente, sono riusciti a portarle con estrema onestà e dignità di fronte alle macchine da presa. quello insomma è stato un lavoro molto delicato e di grande, ripeto, generosità da parte loro. Quindi in qualche modo il lavoro di sceneggiatura è stato un po' un assemblaggio di storie reali che vi sono state riportate. Esattamente. Senti Claudio, allora da oggi in sala quante le copie in cui esce? Il film esce con la BIM, che è una distribuzione di cui siamo orgogliosissimi, che insomma fanno il loro listino, sono dei film che io amo. Esce in 40 copie, 40 cinema in Italia a partire da oggi, e con una grande concentrazione, la maggior parte, insomma un buon numero di copie concentrato giustamente a Roma, perché è un film intimamente romano, ma l'uscita è nazionale, quindi la copertura è nazionale. Allora un abbraccio Claudio, a risentirci presto e in bocca al lupo. Un abbraccione, crepi il lupo, ti ringrazio. Ciao Claudio. Ciao. Claudio Giovannesi, regista del film Lì agli occhi azzurri, presentato al Festival del Cinema di Roma e in uscita nelle sale oggi, in 40 copie. Ecco, noi Stefano Mordini, regista del film Acciaio, anch'esso in uscita oggi nelle sale. Stefano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. Allora, tutto parte da un libro. Come è nato il progetto? Il progetto nasce dal libro e parte soprattutto dal produttore, Carlo Degli Esposti, che aveva comprato i diritti in bozza. E poi c'è stato un incontro come regista, stavamo già collaborando per un'altra cosa e mi ha proposto di leggere il libro e di tradurlo per il cinema. Un percorso classico, diciamo così. Senti, chiaramente per chi ci ascolta, diamo qualche elemento di trama, come lo racconteresti in breve? Acciaio è la storia di due adolescenti che cercano all'interno di un territorio dominato dalla fabbrica e dalla crisi identitaria della classe operaia un proprio futuro, una propria indipendenza. Sono troppo conciso? Molto conciso. Senti Stefano, un mondo giovanile da una parte e poi la scelta, una scelta che però non è molto ampia, da una parte la voglia di andare via da una piccola città industriale italiana e dall'altra un'industria che sembra il destino di molti di loro, molti e molte di loro, però è un mondo industriale in dismissione in cui si rischia anche di morire. Sì, ci sono, come poi spesso accade, no? Nelle piccole realtà, è abbastanza, come dire, sintomatico che tutta una serie di cose che si sviluppano a livello nazionale poi in quel luogo si trova la sintesi di tutto ciò che accade. E in questo racconto qui, in quel luogo lì che è Piombino, nato, cresciuto alle spalle di una grande fabbrica che ha creato una grande memoria e soprattutto ha dato molto lavoro, in questo momento di crisi ci si chiede proprio che cosa si può fare. E noi abbiamo affidato questa riflessione a due adolescenti che vivono di conseguenza un malessere da parte dei genitori e nel caso specifico di Acciaio del fratello Alessio, interpretato da Michele Niondino, e cercano di capire quale potrà essere la loro alternativa. Nel dispiegarsi di queste vite troviamo poi in sostanza le passioni, l'amore, i desideri di queste due ragazze. Ecco, rispetto alla pagina scritta, come ti sei mosso, anche distanziandoti da essa, nella costruzione dei personaggi di un universo giovane? Ma guarda, il libro di Silvia Vallone era abbastanza chiaro sui caratteri dei personaggi. Di conseguenza io e Giulia Calenda, che abbiamo scritto la sceneggiatura in collaborazione con lei, abbiamo attinto a piene mani dal libro. Erano precisi quei caratteri, dovevamo solo farli muovere, vivere all'interno, come dire, del fotogramma. Abbiamo però privilegiato la loro linea narrativa, che ci sembrava un modo, come dire, anche piacevole di trattare la materia del lavoro, visto che le due ragazze nel film hanno 15 anni, per cui è tutta una proiezione quello che sarà per loro. E quindi abbiamo fatto questo. Ovviamente abbiamo sintetizzato altre linee narrative del film, del libro, che come dire, ci portavano a fare altrimenti ci avrebbero dovuto fare un film di 3 ore, non so come dire. Senti, rispetto all'universo provincia che hai avuto modo, insomma, di frequentare, in che direzione sta andando un mondo del genere, soprattutto a livello giovanile? Che impressioni hai a proposito? Ma guarda, oggi è un po' difficile perché c'è questa, ormai da 10 anni a questa parte, insomma, comunque con la rivoluzione digitale, diciamo così, si sono aperte grandi finestre sul mondo, quindi spesso e volentieri c'è la percezione di farne parte, poi nella tua realtà questa è una ricaduta flebile, piccola, e quindi c'è la percezione che tu stai vivendo insieme a una comunità molto ampia, ma poi nei termini dove vivi questa cosa non avviene. Questo secondo me è un problema, nel senso che bisognerebbe spingere le persone in questo momento qui a fare riflessioni e a introiettare dati che possono avere una ricaduta anche sui propri territori. Sembra che la soluzione sia continuamente quella di andare via. Mm-hmm. Io non credo che questo sia giusto e non credo che crei sviluppo, credo che crei semplicemente come dire, desolazione. E la provincia da una parte, come dire, subisce, perché sembra che non si possa mai fare sviluppo dove si vive. Questo è in parte il racconto del film che abbiamo fatto da Acciaio. E dall'altra io confido, come dire, in una generazione come quelle, le due ragazze del film, che sappiano distinguerla questa cosa. Allora, da oggi nelle sale, anche a te chiedo, come a Claudio Giovannesi, in quante copie esce? Acciaio dovrebbero essere una cinquantina. Una cinquantina. Adesso, una più, una meno, adesso devo dirti che precisamente non lo so, ma sono questa l'entità. Bene. Allora Stefano, a risentirci presto, anche a te un in bocca al lupo e un abbraccio. Grazie, un abbraccio anche a voi, creppi questo povero lupo che rischia di rimanere solo. Chiaramente, senti, resta un attimo in linea. Bene, ritroviamo Cinzia Mascoli, che era stata nostra ospite al Radioteatro, questa volta nella nostra trasmissione di cinema Visionari, perché oggi c'è la conferenza stampa al Festival del Film di Roma di Artisti 7607, di cui tu fai parte, Cinzia, vero? Benvenuta. Sì, ciao, salve a tutti, ciao Federico, ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, ne faccio parte parecchio perché sono il presidente, se non altro perché mi hanno costretto a farlo, perché sono l'unica che lavora, perché sono della Vergine e le Vergini lavorano, si sa. Vabbè, tanto per buttarlo un po' così. Sì, allora intanto facciamo un passo indietro per parlare dell'associazione Artisti 7607 e per chi ci ascolta facciamo capire di cosa si tratta e poi parliamo anche dell'iniziativa di oggi. Sì, vabbè, io ti ringrazio che ti ricordi i numeri, perché questo ormai è diventato un toto scommessa ricordarti questa sigla. E in realtà 7607 è la data dello statuto in cui è stato redatto lo Statuto Sociale Europeo degli Artisti, che dice delle cose molto belle, come per esempio il fatto che enuncia dei principi sul fatto che gli artisti non sono artisti solo durante le ore di palcoscenico, ma è un po' un atteggiamento che uno ha nella vita, quindi io credo che un po' tutti sono artisti, poi alcuni riescono a farlo per mestiere, ma insomma tutti abbiamo qualcosa da esprimere, purtroppo non è facile riuscirci, dico anche un buon meccanico è un artista, un buon panettiere. Detto questo, noi ci siamo trovati che come tutte le persone che lavorano, perché per noi è un lavoro, avevamo secondo una legge europea diritto a dei proventi che maturano ogni volta che usano le nostre opere, ogni volta che in televisione passa un film che noi abbiamo fatto, e che è una legge europea che permette anche a tutti i nostri colleghi all'estero si chiama salario differito, perché non è che un attore lavora tutti i giorni, quindi nei momenti in cui non lavori, se però utilizzano un film in cui ci sei stato, siccome ci riguadagna tutta la filiera che lo rimanda in onda, una piccola percentuale spetta anche agli artisti. C'era un ente preposto a fare questo lavoro di raccolta e distribuzione di questi soldi, che non, insomma, adesso senza essere troppo dettagliati non ha funzionato. L'IMAIE, il nuovo IMAIE, adesso è nuovo, prima era il vecchio IMAIE, che comunque ha raccolto più di 130 milioni di euro che non è riuscito a distribuire agli artisti. Noi, semplicemente, che siamo quelli che abbiamo questo diritto, ci siamo chiesti perché, abbiamo studiato per 3 anni, abbiamo cercato di capire quali erano le cause. Quindi la grande novità è che gli artisti si sono impegnati, si sono presi la responsabilità di capire che cosa non funzionava e di cambiarlo. Quindi abbiamo chiesto alla legge di chiarire se effettivamente ci doveva essere solo un ente, perché si tratta di diritti pubblici. La legge a marzo del 2012 ha chiarito che non può esistere un monopolio, perché sono diritti privati, quindi uno può decidere da chi vuole essere rappresentato, e quindi noi adesso stiamo facendo, siamo più di 1000 artisti, una collecting, la prima in Italia, che in cui gli artisti gestiranno direttamente i propri diritti. Questo non solo, io mi rendo conto che per chi lavora a volte gli artisti sembrano dei privilegiati, non è così, e ce ne sono molti bravi che veramente fanno fatica a pagare le rette ai bambini, a pagare l'affitto. Quindi quelli più noti ci mettono la faccia, ma è una categoria di persone che lavora. Quindi può non essere appassionante per chi magari ci sta ascoltando pensare: ma che si lamentano pure questi? No, non ci lamentiamo, abbiamo fatto un esperimento. Abbiamo cercato di capire se in questo paese è possibile addrizzare una cosa che non funziona. Adesso speriamo pure di essere utili ad altre cause, però la prova è riuscita. Anche perché questo ente gestisce del denaro che può ritornare e può reinvestire, a parte i diritti dei singoli artisti, su nuovi progetti. Quindi a noi piacerebbe anche dire che in questo stiamo difendendo anche gli interessi del pubblico, che spesso è costretto a vedere solo i film che vengono prodotti e che devono soltanto produrre del denaro, invece ci sono tante storie che meriterebbero di essere raccontate. Quindi stiamo cercando di cambiare le cose anche a tutela di una molteplicità di sguardi che riguarda anche gli ascoltatori. Insomma, ci piacerebbe veramente anche raccontare le storie in cui loro si riconoscano e non soltanto quelle in cui sembra che la vita è una pubblicità, ecco. Senti Cinzia, allora ricordiamo la conferenza stampa di oggi all'Auditorium Parco della Musica, all'interno della 7ª edizione del Festival del Cinema di Roma, alle 17.30 se non sbaglio. Dalle 17.30, siccome la nostra associazione ha un consiglio direttivo che è composto da Claudio Santamaria, Elio Germano, Neri Marco Re, Luca Toscanio, Paolo Calabresi delle Iene, insomma ce ne verranno tanti, verrà Rocco Papaleo, insomma siamo 1200 attori, quindi ce ne saranno molti, ma non siamo lì per farci vedere, siamo lì per parlare di come si può cambiare questo paese. Quindi chiaramente ci fa piacere che si sappia, e poi ripeto, lo faremo anche per altre cause che non è soltanto questa. Saremo al Parco della Musica dalle 17.30, allo spazio Cubo Vision, che è subito dopo Radio 2, e poi dopo questa conferenza stampa, che vedrà anche delle presenze istituzionali come quella di Emma Bonino, noi alla nostra maniera vogliamo essere accoglienti, offriremo anche un bicchiere di vino e qualcosa di confortevole, perché poi alla fine vogliamo sempre farlo con un po' di sorriso sulle labbra, anche se è stata una battaglia che è durata 3 anni ed è stata molto impegnativa. Sì. Per cui sono stata troppo lunga? No, Cinzia, io anzi vorrei chiudere chiedendoti dei riferimenti internet per chi volesse saperne di più. Assolutamente, noi abbiamo un blog che raccoglie tutti questi anni di lavoro, di ricerca, e si chiama artisti7607. blogspot.com, e lì c'è una raccolta, c'è il nostro statuto, c'è una rassegna stampa, ci sono tutti i documenti che hanno segnato le tappe di questo viaggio di cambiamento, che tra l'altro la direttiva europea da pochi mesi è uscita fuori, ha dato delle linee guida che sono perfettamente in linea con quello che stiamo facendo, cioè che gli artisti, così come ogni categoria ha il diritto di dettare le regole perché conosce i problemi di cui parla, su temi che poi riguardano scelte che ricadono sulle nostre teste. Quindi secondo noi bisognerebbe veramente estendere questa cosa a tutte le categorie, perché poi le leggi le fanno persone che spesso non conoscono i problemi. Quindi a nostro avviso ci dovrebbero essere dei tavoli dove sono sempre presenti le persone che vivono quel problema di ogni tipo di che sia dal disagio mentale, un altro tema che ci sta molto a cuore, perché vediamo che, come dice la famosa cosa, dopo tanti secoli siamo ancora che sembra che con la capoccia non ci capisce niente nessuno e non ci sono paletti. Quindi insomma noi pensiamo che questo dovrebbe essere, lo diciamo non per parlare di noi, ma per dare un po' di speranza che non è vero che non si possono cambiare le cose. Certo, serve dell'impegno e anche una certa preparazione. Noi abbiamo trovato avvocati che ci hanno dato retta gratuitamente, abbiamo trovato professionisti che chiaramente noi non sappiamo fare le cose, ci mettiamo la faccia e la mettiamo anche per tutte le altre cose quando ci chiamano, perché pensiamo che sia giusto in questo mestiere dar conto anche del fatto che un po' di visibilità deve portare dei contenuti che altri che non hanno la visibilità non possono manifestare, quindi fateci sapere ragazzi che siamo qui. Bene, allora aspettiamo ulteriori aggiornamenti prossimamente, nel frattempo un abbraccio Cinzia, a risentirci presto. Grazie mille a tutti, grazie anche a te, è veramente fondamentale questa trasmissione ragazzi. Buona giornata a tutti. Ciao Cinzia, a presto. Ciao Federico. Ciao ciao. Cinzia Mascoli per quanto riguarda la conferenza stampa di Artisti 7607 delle 17.30 oggi all'Auditorium Parco della Musica all'interno del Festival del Film di Roma. Per comunicare con noi il numero di SMS 342-3574-357, per la posta elettronica visionari@ondarossa.info. Francesco Castellani, regista del film Black Star, presentato anche questo alla 7ª edizione del Festival del Film di Roma, dopodomani, il 17 novembre. Francesco, benvenuto a Visionari. Ciao Federico, benvenuto, grazie a tutti gli ascoltatori anche. Allora, una storia interessante, raccontacela un po' in breve, soprattutto per chi è all'ascolto. Sì, diciamo siamo nel quartiere Petralata di Roma e c'è un piccolo campetto di calcio che era stato abbandonato per anni, che un gruppo di ragazzi italiani ha preso in gestione. La caratteristica di questo gruppo però di ragazzi italiani è che l'ha preso in gestione non per giocare così a calcio tra italiani, ma per far giocare una squadra interamente composta da rifugiati e migranti forzati, cioè ragazzi arrivati da dittature, guerre, in fuga dai paesi dell'Africa, dell'Afghanistan. E questa squadra inizia a muovere i suoi primi passi in questo campo, ma poi si deve scontrare con l'ostilità di un comitato di quartiere che in pieno agosto si mette di traverso a questa attività e dice: no, questo campo era del quartiere, dovevano chiedercelo a noi, dovevano darlo a loro, allora noi siamo gli ultimi, siamo sempre l'ultima ruota del carro, persino questi venuti da fuori contano su di noi. Da questo conflitto poi scaturisce una vera e propria guerra tra poveri che arriverà a dividere il campo paradossalmente in due con una barricata, perché il comitato di quartiere otterrà, grazie a un abile avvocato, un'ordinanza di sgombero facendo leva su dei cavilli legali. I ragazzi della squadra a quel punto, pur di non lasciare questo piccolo pezzo di terra che per loro rappresenta lo spazio che hanno, decidono di barricarsi dentro e non sono disposti ad abbandonare questo campo. Quindi poi si svolge questa contrapposizione, perché il comitato di quartiere occupa l'altra metà del campo, fino a una notte di San Lorenzo particolare in cui, diciamo, questa guerra si scioglierà con una sicurezza. Oh, dal tuo racconto immagino forti elementi di realtà, e a questo punto ti chiedo anche come nasce il tutto, l'idea e poi lo sviluppo. Sì, in realtà diciamo ci sono forti elementi di realtà, c'è anche una certa vocazione a un tono favolistico nella seconda parte del film, c'è un tono di commedia generale, però ci sono momenti di tensione, anche momenti drammatici, insomma diciamo, il tentativo è stato quello di mescolare un po' i generi nella storia. Ci sono arrivato perché mi ero occupato di una squadra di calcio vera di rifugiati che esiste davvero a Roma e si chiama Liberi Nantes Football Club, alla quale poi il film è dedicato, diciamo, e seguendo le avventure di questa squadra avevo già realizzato un documentario e una serie TV, e quindi il film è stato un po' la naturale prosecuzione del rapporto con loro, dove però tutto ciò che erano gli elementi della realtà documentaristica, diciamo il rendere conto delle storie, delle biografie dei ragazzi e delle problematiche legate alla migrazione, è stato poi sciolto invece in un film di invenzione, perché diciamo fortunatamente a Pietralata i ragazzi sono tranquilli, il quartiere è amichevole, ma diciamo, quello che interessava era immaginare con una sorta di what if, cioè cosa accadrebbe se un gruppo di persone, per vari motivi che poi scopriremo nel film, si mettesse contro questi ragazzi, che ne sarebbe del loro progetto. Quindi in sostanza è un'indagine poi sulle relazioni umane che si determinano sotto pressione in un conflitto tra persone che vivono disagi alla fine molto simili e che all'inizio credono invece che non siano così simili. Senti, nello sviluppo dicevi anche favolistico, ecco, su quali elementi hai voluto puntare nel tuo distaccarti dal realismo puro? Beh, intanto diciamo c'è comunque un'astrazione, nel senso che la vicenda è molto chiusa dentro il campo di calcio, la maggior parte della vicenda si svolge lì e da questo punto di vista è un campo di Petralata, ma potrebbe anche essere un campo di una periferia londinese o di un'altra qualsiasi capitale europea, diciamo. L'idea del tono favolistico emerge verso l'epilogo del film, perché appunto c'è un finale che ovviamente non rivelerò, perché spero che poi il pubblico lo scopra da solo, nel quale poi rimane in sospeso se la soluzione del tutto è stata possibile grazie anche a un piccolo miracolo che si determina durante la notte, o se questo miracolo invece è comunque frutto degli atti consapevoli delle persone che hanno partecipato a questa strana notte, a questo strano epilogo. Quindi diciamo la favola c'è, ma non è così esplicita. Poi c'è anche in tanti altri passaggi del film, perché il film è ricco di tantissimi personaggi. C'è anche un bambino che gioca con la squadra, nel senso che è un bambino italiano che abita nel quartiere ma che è innamorato di questo campo e di questa squadra, e che ha tutto un suo mondo, diciamo, segreto, attraverso il quale poi dialoga con questo campo e con la squadra. E anche quello è un elemento abbastanza favolistico, diciamo. Però più di tanto non posso svelare, purtroppo, certo, perché diciamo c'è una tensione che arriva fino alla fine del film che non mi permette di dire di più sull'epilogo. Senti Francesco, visto che di questo tema comunque ti sei occupato anche nella realtà, ti chiedo com'è cambiata, come sta cambiando nel tempo la dimensione del corpo migrante all'interno della nostra società? Beh, direi che fortunatamente sta cambiando molto, e come tutte le cose poi che si costruiscono nel tempo, le relazioni umane evolvono nonostante i pregiudizi. È chiaro che è tutto molto complicato e tutto è reso ancora oggi complicato dal fatto che poi la società nel suo complesso è di una crisi molto profonda, quindi poi i disagi delle persone si riflettono in queste dinamiche di rapporti. Da questo punto di vista, diciamo, io considero il tema della migrazione ha bisogno anche, se vuole essere trattato dal cinema, di uno scatto in avanti. Io ho cercato di farlo non concentrandomi troppo sul percorso che i ragazzi fanno per arrivare qua, perché tra l'altro abbiamo sentito prima Giovannetti, cioè qui ormai siamo in una società dove ci sono seconde e terze generazioni, quindi fermo restando l'enorme problema dei flussi, dei viaggi clandestini che va comunque risolto, c'è anche una dimensione però di convivenza reale che è andata molto oltre quello che spesso poi rappresentiamo. Tant'è vero che anche nel comitato di quartiere che si oppone alla squadra di calcio c'è un ragazzo di seconda generazione, no? Più realista del re, diciamo. Io credo che le persone alla fine, voglio credere, siano migliori delle strumentalizzazioni che spesso vengono fatte sulla pelle appunto delle persone. Sì. Perché se mi devo basare sulla mia esperienza personale, la squadra, ad esempio quella reale che ho rappresentato nel documentario in passato, gioca un campionato di terza categoria e posso garantire che gli episodi, diciamo, di ostilità o di difficoltà sono infinitamente inferiori alle grandi manifestazioni invece di accoglienza e di condivisione, perché poi il punto è questo, cioè dobbiamo imparare a convivere, non c'è niente da fare, è inutile aggrapparsi alle illusioni che qualcuno propone di fare piazza pulita, cioè il mondo è questo e per fortuna è questo, perché lo trovo molto più interessante con tutti i suoi limiti e tutte le sue contraddizioni. Quindi io, diciamo, non sono ottimista perché i numeri non mi permettono di essere, cioè la società è in grave crisi. Ci sono fenomeni, no, in tutta Europa di revanchismo, c'è una destra estrema che prende sempre più piede ovunque, proprio con questi temi del razzismo, ma in realtà è perché utilizzano un bersaglio fittizio, cioè devono convogliare da qualche parte il disagio sociale, e questa è una scorciatoia semplice, diciamo. Poi sta tutto il resto della società a cercare di opporsi in maniera civile a questo tipo di derive. Francesco, allora ricordiamo l'appuntamento al Festival del Film di Roma. Sabato 17 novembre. Sabato 17 sarà 19:30, sala Cinema 2 del Villaggio del Festival. Aspettiamo tutti perché siamo molto felici di condividere questa strana storia raccontata nel film con più persone possibili, anche perché ci aspettiamo poi un ritorno, dei confronti, delle opinioni, insomma speriamo di suscitare un po' di interesse e di curiosità. Anche per me sarà occasione di vederlo. Ti chiedo anche in chiusura se già ci sono in previsione le possibilità di uscita in sala. Allora, noi ci contiamo molto, diciamo, intanto Rai Cinema comunque ci ha dato una mano, è intervenuta nella produzione del film e quindi, diciamo, superato poi questo battesimo del fuoco del festival, noi speriamo di avviare un confronto più preciso anche su questo tema, perché indubbiamente non abbiamo voluto né fare un film di nicchia, anzi tutt'altro, lo consideriamo un film molto popolare e per un pubblico molto ampio, e quindi speriamo di poterlo appunto proporre a un pubblico ampio. Insomma, la nostra battaglia da domenica mattina è su questo, diciamo, come autori e produttori. Bene, allora ci vediamo sabato, un abbraccio e a risentirci. Grazie presto, mille Federico, un saluto a tutti, arrivederci. Ciao. Francesco Castellani, regista del film Black Star. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Torniamo al documentario, restando però sempre al Festival del Film di Roma, con Silvia Luzzi, che insieme a Luca Bellino ha realizzato il documentario dell'arte della guerra, che sarà in programmazione sia il 17 che il 18. Silvia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao, buon pomeriggio. Allora, per il vostro, noi ci eravamo sentiti per un altro vostro lavoro, in quell'occasione però avevamo sentito Luca, e allora, visto che mi piace anche l'alternanza degli artisti, questa volta sentiamo Silvia, e partiamo da questo titolo che dell'arte della guerra sembra parlare di arte marziale, ma in realtà si parla di operai, e mi sembra anche comunque indicativo. Allora, raccontaci un po' di questa storia. Allora, il titolo è ispirato in realtà a Clausewitz, che è un teorico militare russiano, che scrisse della guerra. E perché questo? Perché gli operai della INSE, che è questa fabbrica appunto di Milano, che loro sono riusciti di fatto a salvare con una lotta molto forte nel 2009, quando parlano di lotta operaia di fatto parlano di guerra e dettano delle regole precise, dicendo che è fondamentale in una guerra individuare il proprio nemico, formare un esercito, difendere il territorio e creare una strategia. Quando parlano di nemico, poi loro non parlano soltanto di padrone, ovviamente, ma parlano anche per esempio di sindacato, quindi di contrattazioni, accordi a perdere. Quando parlano di territorio parlano della fabbrica e quindi anche dei macchinari di fatto da difendere, e quando parlano di strategia parlano di partito operaio. Questa è una storia, insomma, che parte un po' prima del 2009. Loro sono stati 8 giorni in 4 su un carro ponte a 20 metri di altezza, perché c'era la volontà appunto del padrone, che era un torinese, Silvano Gente, chiamato da loro del rottamatore, di fatto di chiudere la fabbrica, rottamare i macchinari, che sono poi macchinari della ex Innocenti, quindi immagino, insomma, che macchinari sono, e licenziarli tutti. Stanno su 8 giorni, di fatto la regola è non c'è margine di trattativa, riescono a trovare un nuovo acquirente, scendono e vincono, e la fabbrica di fatto si salva. Era cominciata però 15 mesi prima, perché loro restarono in presidio permanente, rifiutando anche la mobilità, rifiutando lo stipendio, fuori dalla fabbrica. Insomma, quando noi ci siamo scontrati, diciamo, con questa storia, è stato uno scontro, ci siamo resi conto, non eravamo di fronte a un presidio qualunque, con tutto il rispetto dei presidi per la moglie davanti alle fabbriche, però insomma c'era una sorta di organizzazione, diciamo, un po' diversa. Era una delegazione quasi militare, in sostanza. Come avete incrociato questa vicenda? Guarda, noi abbiamo letto online che era il 3 agosto del 2009, siamo partiti di notte e siamo arrivati la mattina dopo a Milano. Loro erano appena saliti sul carro ponte e siamo arrivati lì in via Rubattino davanti appunto alla fabbrica e c'erano appena stati gli scontri con la polizia. La fabbrica era occupata da 400 tra poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, addirittura il prefetto di Milano aveva mandato l'antiterrorismo, perché insomma quattro operai cinquantenni erano su un carro ponte. E siamo stati lì poi nel presidio 8 giorni e 7 notti, questo non siamo mai andati via, abbiamo dormito lì con loro. Questo presidio poi si continuava ad ingrossare, perché arrivavano poi altri operai di altre realtà in crisi, lombarde, che ce ne sono a Bizeffe, e si è rimasti lì 8 giorni finché loro appunto non sono scesi. E da lì abbiamo deciso con i quattro che erano su, diciamo, di raccontare la teoria che c'era dietro questa lotta, e quindi di fatto il documentario poi assume un po' la forma del saggio, fatto appunto ad atti, in quattro atti, che racconta la teoria. Quindi non è che entriamo nel privato, i personaggi, non ci interessa, che la vita privata degli operai, non ci interessa questo, non ci interessava, non interessava a loro, non interessava a noi. Volevamo uscire un po' dalla logica, quella dell'operaio che piange e si lamenta per le bollette, perché oramai la televisione ci ha abituato un po' a tutto, e volevamo parlare proprio di teoria, e quello abbiamo fatto. Ecco, proprio a proposito di teoria, quali sono stati gli elementi determinanti che secondo voi più interessanti di questa vertenza e che secondo voi hanno delle prospettive di successo? Guarda, la cosa fondamentale è stata la presa di coscienza di classe, cioè la coscienza di essere in una classe e di considerarsi un esercito. Questo nella pratica si è trasformato nel rifiutare, per esempio, la figura del sindacato, non rifiutare il sindacato, ma di fatto rifiutare di essere strumento del sindacato stesso, cioè utilizzare il sindacato come strumento, così come dovrebbe essere. Cioè loro hanno portato avanti in prima persona una trattativa con il nuovo acquirente e si sono forniti chiaramente del funzionario sindacale per, diciamo, la parte la burocratica, chiamiamola. Questa è stata una parte fondamentale della lotta. La seconda parte è stata la difesa dei macchinari della fabbrica, perché nella loro teoria sostanzialmente, se chiaramente tu sei in presidio fuori ma ti fai portare via i macchinari, cosa ci stai a fare in presidio fuori? Insomma, perché in quella fabbrica non rientrerai mai, e quindi la difesa fortissima dei macchinari. Loro per 15 mesi di presidio entravano di nascosto in fabbrica dai sotterranei, li andavano a curare di fatto questi macchinari, non per passione e per amore chiaramente per una lesatrice, ma perché il macchinario per loro era in quel momento un mezzo di lotta, che se non c'era più poi non c'era più neanche il lavoro, quindi sarebbero andati tutti a casa. L'altra cosa è la volontà di creare quello che loro chiamano, che è una cosa reale, partito operaio, che non è un partito chiaramente che si presenta ovviamente alle elezioni, è un partito politico inteso come tale, ma è una comunità, un insieme di operai che sono in tutte le fabbriche. Ci sono varie comunità operai di questo tipo in tutte le fabbriche, vari gruppi che sono piccoli e ristretti, che però portano avanti appunto questo tipo di discorso con quei punti appunto che dicevo prima, e di fatto portando avanti una resistenza vera e propria, applicando queste piccole, diciamo, regole, di fatto la lotta si può vincere, e poi loro l'hanno vinta, infatti. Senti Silvia, dopo questa presentazione al Festival Romano, che percorso seguirete? Che percorso, chi può dirlo? Allora, innanzitutto il film è fatto per gli operai, per i lavoratori, è un progetto politico che noi abbiamo fatto insieme a loro, perché l'abbiamo scritto insieme a loro, e quindi sarà presentato in ogni presidio o situazione di lotta che ce lo chiederà, assolutamente, in tutta Italia. Saranno presenti loro laddove possibile, chiaramente in Lombardia un po' di più, ma insomma questo è un po' il percorso che noi abbiamo immaginato. Avevamo anche immaginato, e speriamo, una distribuzione un po' più ampia, speriamo, nella sala, però chiaramente non è semplice uscire in sala con un documentario, lo sapete, insomma, ci stiamo provando, e sarà una distribuzione autonoma, diciamo così. E per saperne di più in rete, dove si può cercare? Allora, c'è un sito che si chiama dell'artedellaguerra.com, dove insomma, ci sono vari teaser, ci sono informazioni sul film, ci sono delle foto dei luoghi molto, non da dire belli, poi in realtà è una serie industriale, però sono luoghi bellissimi dove abbiamo girato, perché abbiamo scelto di raccontare anche il cambiamento che c'è stato in Lombardia, quindi diciamo l'industria uccisa poi dalla finanza, quindi abbiamo girato per esempio dentro l'ex acciaierie Falck di Sesto San Giovanni, nell'ex villaggio operaio di Crespidarda, nell'ex Innocenti, è tutto ex chiaramente, dove abbiamo girato, e nell'ex l'edificio di Lodi, quindi ci sono anche queste foto, queste location molto molto molto belle, e ci sono tutte le informazioni insomma lì, poi nelle varie proiezioni, speriamo che l'elenco sia lungo, insomma, dove andrà il film, si potranno trovare anche lì, insomma. Bene Silvia, allora un abbraccio a te e a Luca, e a risentirci per le prossime novità. Sì, speriamo di averne tantissime. Va? Bene, bene. E ricordiamo anche le due date, il 17 e il 18 al Festival del Film di Roma con il vostro documentario dell'arte della guerra. Sì, grazie. Ciao, a presto. Ciao, a presto, ciao, ciao. In collegamento con Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, e intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, buon pomeriggio. Paolo, mi era arrivata una mail che parlava di questo progetto Web Movies e ha due elementi fondamentali che mi hanno subito destato interesse, ossia quello dei giovani autori e quello della rete. Allora, come è nato, come si è sviluppato questo progetto, che è una tua ideazione? Sì, una mia iniziativa, nel senso che quando c'è stato un evento di celebrazione dei 10 anni di vita di Rai Cinema, ero stato appena nominato amministratore delegato, ho cercato di proporre anche qualcosa di nuovo oltre a quello che già facciamo, ed è molto per l'industria del cinema italiano. E appunto ho coniugato questi due obiettivi, queste due esigenze, cioè come dare la possibilità a giovani autori, c'è anche qualcuno che poi non è giovanissimo, ma comunque che si può cimentare ugualmente, di fare un prodotto a basso costo, non per le sale, perché purtroppo il problema della distribuzione sta diventando drammatico, quindi la possibilità di cimentarsi, di far vedere il proprio valore, con quello della sfida, di testare il mercato cinematografico su una realtà distributiva alternativa alla sala, cercando così di creare una filiera di sfruttamento da quella tradizionale, per capire anche se il potenziale del web può essere davvero un'opzione valida sul cinema, un'opzione distributiva meno costosa e più semplice, e soprattutto per un certo tipo di prodotto, perché qui parliamo di film da 90 minuti, non stiamo parlando di cortometraggi, e quindi è una sfida. Il terzo punto era di fare dei film, diciamo dal nostro punto di vista, estremi rispetto al tipo di cinema che noi finanziamo di solito, e quindi di genere spinto, nel senso horror, fantasy, thriller, gialli psicologici e quant'altro, tutti quei generi che dovrebbero, almeno sulla carta, trovare una accoglienza da parte del mondo del web. Che tipo di risposta avete avuto lanciando questo progetto? Ma la risposta è stata in un primo momento di non molta comprensione, quindi abbiamo avuto centinaia di progetti, cioè chi ha tirato fuori dal cassetto le vecchie sceneggiature per mandarcele, magari per farle a basso costo. Quando poi ho avuto modo di rispiegare pubblicamente cosa intendevamo, allora lì il sistema ha capito, e quindi ci sono state molti progetti di giovani, non sceneggiature ma progetti, sono venuti a spiegarceli, a capire. E noi, una volta che abbiamo scelto i progetti, abbiamo lasciato la massima libertà, pur finanziando, la massima libertà creativa. Ci siamo fidati, perché crediamo che questo deve essere un po' anche il nostro compito. E quindi trovare dei talenti, ma lasciando spazio al possibile talento, perché poi non è detto che sempre ci sia. E niente, quindi siamo riusciti ad ottenerne 10 di questi film, ne abbiamo finanziati 10, 5 che già sono pronti, altri 5 che sono in fase produttiva, che andranno, ecco, anche questa è una cosa di cui siamo abbastanza orgogliosi, perché andranno free prima sulla piattaforma Cubovision per 15 giorni, poi sul canale Rai Cinema Channel, sempre in VOD free, per poi passare probabilmente su YouTube, sempre in free, e poi, facendo quindi un po' il contrario rispetto al solito, a pagamento su iTunes. Poi abbiamo il piano, da qui a poco, qualche mese, di fare un cofanetto completo di tutti questi film, per poi finalmente approdare alla televisione free col canale o il cinema di Rai, cioè Rai Movie. Allora, come si articolerà la visualizzazione? Nel senso, ci sarà un'uscita per ogni sì. distanziata nel tempo, per ogni lavoro praticamente? Noi abbiamo pensato di fare che l'uscita di un film al mese, almeno per i primi 5. Quindi il primo dovrebbe essere in onda da oggi, se non ricordo male, che è Fairy Tale, è un film diciamo di un fantasma, un po' horror, molto molto bello dal punto di vista della qualità produttiva, di Ascanio Malgarini e Cristian Bisceglia. E quindi ogni mese uscirà un film dove appunto i primi 15 giorni starà su Cubovision in free e poi passerà su Rai Cinema Channel. E quindi uno al mese. E questo quindi nell'arco di 10 mesi, visto che nell'arco di 10 mesi, esattamente. E per saperne di più su questo progetto, in rete dove si può cercare? Ma allora, prima di tutto sulla piattaforma Cubovision, sì. Poi c'è molto su Rai Cinema Channel o RaiCinema.it, si può vedere un po' anche i promo dei vari film, ripeto, non tutti, quelli che sono pronti al momento, ad esempio 2 dei 5 che andranno in onda appunto insomma saranno distribuiti a breve, sono ancora in fase di montaggio, quindi quello che c'è, ci sono dei promo. E quindi su queste, essenzialmente su, al momento su queste due piattaforme. Benissimo Paolo, allora ci sentiamo magari prossimamente per gli sviluppi di questo progetto e un in bocca al lupo. Grazie Crepi, e speriamo, perché siamo anche noi molto curiosi di capire che tipo di potenziale possibilità ha questo prodotto, perché chiaramente se avesse un certo successo avremmo la spinta per poter continuare ad investire nei giovani e nei nuovi talenti, nel genere ma per la rete. Bene, a risentirci presto. Grazie a voi, arrivederci. Paolo Del Brocco, ideatore del progetto Web Movies. Torniamo adesso ai documentari, lo facciamo con Pier Giorgio Curzi, che è regista del documentario SMS, Save My Soul, che è visibile in due festival, al 53esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze, ed è in programmazione il 16 e il 17 novembre, e qui a Roma la 7ª edizione del Festival del Film di Roma il 18. E insomma, mi sembrano due buone finestre, no Pier Giorgio? Intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie. Sì, sono decisamente due buone finestre. Per quanto mi riguarda, un colpaccio, insomma, che non sempre accade, quindi è una fortuna e anche una soddisfazione. Quindi. Allora, raccontacelo un po', soprattutto per chi ci sta ascoltando, chiaramente. Sì, è una storia piuttosto disturbante e poetica, che ha per protagonista un poeta di circa 70 anni, che manda, risponde con delle provocazioni poetiche a degli annunci di lavoro pubblicati su Porta Portese, di donne che cercano lavoro come segretarie, commesse, ragioniere, e lui, che ovviamente non cerca e non offre lavoro, manda delle provocazioni amorose a queste donne, scrivendo delle brevi poesie, ovviamente spesso riceve, insomma, male parole o comunque indifferenza, invece con una piccola percentuale di donne invece inizia una corrispondenza, diciamo, virtuale, dove sostanzialmente lui diventa, poi per una piccola minoranza delle donne che accettano questo gioco, una specie di amante virtuale con il quale condividere gli aspetti più controversi della loro vita affettiva ma anche sessuale. E queste corrispondenze vanno avanti da ormai da diversi anni, e lui tra l'altro trascrive in maniera piuttosto ossessiva anche queste nel suo computer trascrive queste corrispondenze, e quindi ha centinaia e centinaia, se non migliaia, di pagine con centinaia di donne che sono diventate in qualche modo la sua tossicodipendenza, ma anche la sua forma di evasione da una realtà familiare piuttosto dura, controversa, perché lui d'altronde è e rimane anche un padre che deve badare e si deve far carico di, insomma, di quattro figli, ognuno con problematiche diverse, quindi questa diventa una sua forma, queste corrispondenze amorose sono una forma di evasione per lui, che si sente così ancora utile, ancora desiderato, forse più semplicemente meno solo. Infatti il sottotitolo del documentario SMS è proprio Save My Soul, intesa proprio come forma di salvezza. E come hai scoperto questa realtà? Ma è stato, diciamo, una coincidenza piuttosto fortunosa. Io ho conosciuto lui, il protagonista, in un locale di Trastevere, in Lettere e Caffè, dove lui va regolarmente una volta a settimana insieme ad altre persone a declamare le sue poesie. Ecco, c'è una competizione tra poeti. Ovviamente non tutti sono, secondo me, alla sua altezza, è più che altro un'occasione di un momento di avanspettacolo in alcuni momenti, però ecco, lui devo dire che sicuramente è il più talentuoso tra i poeti che partecipano a questa competizione, e l'ho conosciuto in questa circostanza, quindi sono rimasto colpito dalla sua poesia innanzitutto, e poi da lì ho iniziato a conoscerlo come uomo e come padre, e poi, vista anche la differenza di età, l'amicizia ha assunto un po' più i tratti di un rapporto filiale tra me e lui, e un po' alla volta lui mi ha fatto conoscere, mi ha fatto entrare nel suo privato, ecco, fino a conoscere questo aspetto del suo rapporto compulsivo con gli SMS. Senti, ma è un rapporto che si mantiene digitale nel corso degli anni? Con queste donne sì, sostanzialmente sì, e devo dire che lui in questo è anche piuttosto coerente, cioè nel senso che lui, anche per la differenza di età, perché insomma lui è un uomo di 70 anni, spesso le donne con le quali si relaziona sono ragazze che vanno dai 20 ai 30, massimo 40 anni, non di più, e lui cerca in tutti i modi di scoraggiare l'incontro, perché la richiesta di un incontro reale viene di solito da parte delle donne, perché ovviamente c'è anche una sorta di sublimazione nei suoi confronti, e molti di questi si innamorano di un personaggio che non conoscono fisicamente e chiedono insomma, più volte sono insistenti nel cercare un incontro, nel cercare un contatto con lui. Lui le scoraggia più volte, dichiara senza nessun problema la sua età, però con alcune di queste poi l'incontro c'è stato effettivamente. Però la maggior parte dei rapporti, delle relazioni rimangono virtuali. Senti, e come hai deciso di sviluppare il racconto? Nel senso, immagino seguendo solo lui, visto che insomma non ne sono seguiti incontri, e quindi hai seguito lui nel suo quotidiano? Sì, principalmente sì, lui è il protagonista, diciamo, assoluto, cioè è il mio, è una sorta di pedinamento, insomma, di questo protagonista. Però diventano anche i protagonisti, diciamo, i figli, i quattro figli che lui incontra nel documentario, perché insomma il documentario non è soltanto appunto sugli SMS, ma come dicevo prima, gli SMS come forma di evasione da una realtà familiare piuttosto in alcuni momenti claustrofobica per lui, e quindi c'è l'incontro con i figli, ci sono appunto delle brevi ma intense interviste con i figli, ma sostanzialmente è il suo quotidiano, insomma. E che personaggio ne emerge? Questa domanda io ho difficoltà, nel senso che effettivamente chi lo vede si fa un'idea diversa, perché il personaggio è estremamente ambiguo e misterioso, è difficile tracciare un profilo piuttosto netto. È un personaggio che divide, non è un eroe positivo, ma non è neanche un eroe negativo, è estremamente sfuggente. Io in qualche modo mi sono affezionato a lui e altre persone, soprattutto le donne, devo dire, che vedono il documentario non traggono, diciamo, un giudizio bello. Mm-hmm. E altre rimangono invece magari affascinate, incuriosite. Ripeto, è un personaggio che divide. Mm-hmm. Senti, dopo questi due festival è prevista una forma di distribuzione? Io sto cercando, con l'aiuto anche di amici, di cercare di portarlo nelle sale, magari nelle sale del sede di Roma, in una sala possibilmente. Già sto prendendo accordi con alcune di queste, perché insomma mi sembra un po' un peccato chiudere l'esperienza di un film, di un documentario, soltanto in circuito dei festival, per quanto prestigiosi siano, e delle anteprime, secondo me, insomma, quindi i miei sforzi sono tutti orientati per tenerlo in una sala, anche se piccola. Va bene, allora, a questo punto lo chiedo anche a te, visto che comunque per i documentari usiamo farlo, se ci sono riferimenti internet su questo lavoro nello specifico, ce li puoi dare così? Sì. Per informarsi? Sì, basta andare sul sito della società che l'ha prodotto, la B&B Film, quindi www.bbfilm.tv, o sulla pagina Facebook, che è www.facebook.com/bbfilmproduction. Sì, io penso che siano questi i riferimenti più utili. Benissimo. Pier Giorgio, allora io ti saluto, a risentirci magari per le prossime novità. Grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Pier Giorgio Curzi, regista del documentario SMS, Save My Soul, presentato al 53esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze il 16 e il 17 novembre, e in programmazione anche alla settima edizione del Festival del Film di Roma il 18 novembre. E l'ultimo collegamento è con Tommaso Facchin, co-regista del documentario DreamWorks China. Ne abbiamo parlato qualche mese fa, proprio con lui, proprio di questo lavoro. E, tra l'altro, Tommaso, intanto ben ritrovato su queste frequenze. Ciao, grazie, ciao a tutti. E poi devo dire, quest'estate c'è stata anche un'altra circostanza, perché ero presidente di giuria del Festival Luci sul Lavoro a Montepulciano e lo abbiamo premiato come miglior lavoro. Sì, è vero. lo scopro adesso, tra l'altro. Vedi? Allora, Tommaso, sarà programmato mercoledì prossimo al laboratorio occupato autogestito Acrobax qui a Roma, l'ex Cinodromo, nell'ambito dei festeggiamenti sui 10 anni di occupazione dell'Acrobax, un'iniziativa riguardante proprio il mondo del lavoro. Allora, per chi ci ascolta, DreamWorks China cos'è? Allora, DreamWorks China è un documentario, l'abbiamo già detto, che è stato realizzato ormai all'inizio del 2011, diciamo, ed è stato realizzato in Cina, nella provincia del Guangdong, quindi nella Cina meridionale, in un luogo che è un luogo molto significativo se si vuol parlare di lavoro in Cina, perché è un po' la regione che viene definita la fabbrica del mondo, cioè la zona della Cina dove sono concentrate le maggiori imprese sia cinesi che multinazionali che producono poi le prodotti di ogni genere che arrivano anche nei nostri mercati, insomma. Ovviamente la più famosa di queste imprese di cui spesso si sente parlare è la Foxconn, che è un'azienda taiwanese di componentistica per l'elettronica che fabbrica i famosi prodotti Apple. E noi nel nostro viaggio, anzi iniziamo il nostro viaggio proprio dai lavoratori che producono questi prodotti, assemblano questi prodotti. E poi però è un lavoro che quindi incontra lavoratori, soprattutto giovani, lavoratori migranti, e poi raccontando attraverso una serie di storie che si intrecciano questo contesto, allargando poi un po' la prospettiva anche e cercando di interrogare un po' quella che è la consapevolezza dei diritti e del diritto in queste soprattutto nelle nuove generazioni di lavoratori cinesi. E quindi c'è anche uno sguardo un po' su una società civile, su piccole organizzazioni indipendenti che cercano di portare avanti attività di tutela per i lavoratori, di educazione, eccetera, insomma. Mm-hmm. Quindi il lavoro è una sorta di documentario, reportage nel quale si intrecciano storie, personaggi intorno a questi temi. E poi insieme è stato fatto anche un reportage fotografico da Tommaso Bonaventura, che è un fotografo con cui abbiamo collaborato io e Ivan Franceschini, che siamo gli autori del documentario, che ha ritratto, così, ha fatto una serie di ritratti di giovani lavoratori migranti e che si possono trovare pubblicati sul sito del documentario, insomma, online. Ecco, proprio a proposito di ritratti, ne esce fuori un mosaico, un affresco in cui i protagonisti, da una parte ci sono giovani operai, soprattutto provenienti dalla campagna e quindi urbanizzati, che rappresentano manodopera a basso costo e sfruttata, sia per quanto riguarda i lunghissimi orari di lavoro, il ritmo sostenuto, la mancanza di sicurezza e nessuna sindacalizzazione. Dall'altro la città, anche un altro elemento inquietante è quella della città, una città inquinata, sovraffollata, con palazzoni dormitorio che sembrano una realtà alienante, una continuazione della fabbrica nella società civile. Questa almeno è l'impressione e anche la forza, secondo me, del vostro lavoro. Sì, certo, nel documentario si vedono anche i luoghi, ovviamente, che frequentano in cui si muovono questi giovani lavoratori, no? E quindi sono luoghi che sono in luoghi di città, perché stiamo parlando di una metropoli come Shenzhen, ad esempio, però sono luoghi che in realtà stanno alla periferia, stanno fuori da queste grandi città, sì, da queste megalopoli, e quindi hanno tutte le caratteristiche di zone, appunto, come l'hai descritto anche tu, in cui ci sono questi assembramenti industriali, dormitori, che appunto si trova in una città che si chiama Shenzhen, ma potrebbe chiamarsi anche in qualunque altro modo, tanto cambierebbe poco, insomma, no? L'identità proprio anche dei luoghi è abbastanza, oltre a essere abbastanza fatiscente e difficile per chi ci vive, è anche abbastanza simile un po' ovunque, come si potrebbe immaginare facilmente, insomma, anche da qui. Quindi noi abbiamo questa massa di lavoratori giovanissimi che arrivano sono tutti lavoratori migranti, cioè che arrivano dalle zone più arretrate del paese, dalla campagna, si spostano in queste zone costiere per lavorare, e quindi loro è un trasferimento in città, ma un trasferimento in questi così, sobborghi, operai, in cui le condizioni sono abbastanza difficili. Quindi noi abbiamo cercato di raccontare anche, soprattutto visivamente, quello che circonda un po' l'ambiente in cui si muovono questi lavoratori. E il vostro, lo scopo del vostro lavoro era soprattutto puntare sulla la lente d'ingrandimento sulla questione dei diritti, perché il grosso problema dei lavoratori in Cina, come dicevo prima, la mancanza di una sindacalizzazione, ma insomma l'organizzazione dei lavoratori è molto difficoltosa a partire dall'alto, ma anche dal basso, dagli stessi operai. Certo, certo. Innanzitutto perché in Cina ovviamente esiste un sindacato, no? Sindacato ufficiale, siamo in un paese comunista, tra virgolette, e quindi il sindacato ufficiale esiste, i lavoratori sono, così nella retorica del partito, sono i padroni dello Stato e quindi dovrebbero, teoricamente sono coloro che non devono temere, insomma, nel rapporto con le aziende e l'industria, però il sindacato ufficiale in realtà svolge una funzione praticamente soltanto così di rappresentativa, ma non ha nessun, è più schierato, insomma, dalla parte dell'azienda, del capitale, degli imprenditori, che da quella dei lavoratori, e quindi si viene a creare questa situazione per cui i lavoratori cinesi si trovano in qualche modo da soli di fronte alle questioni che riguardano i loro diritti, e quindi si formano delle piccole unità che sono ancora a un livello abbastanza embrionale, potremmo definire, di auto-organizzazione di lavoratori che magari hanno preso coscienza, perché il dato di fatto importante che spesso magari noi qui in Occidente non conosciamo è che in Cina esiste una legislazione sul lavoro ed esiste una legislazione anche abbastanza avanzata sul lavoro, che è stata promossa proprio dall'alto come strumento per tutelare i lavoratori. Il punto è che poi questa legislazione è difficile da, cioè non viene applicata, insomma, e quindi quando i lavoratori iniziano magari a seguito, faccio un esempio, di un infortunio grave sul lavoro, la difficoltà di avere risarcimenti eccetera, o da dover fare cause ai datori di lavoro, allora ecco che scoprono che esiste, informandosi scoprono che esistono delle leggi eccetera, e allora si formano queste micro organizzazioni di lavoratori che cercano di autotutelarsi servendosi del diritto, cosa che ovviamente è facilmente immaginabile, è abbastanza difficile, visto anche non so, semplicemente così, il livello culturale di persone che comunque arrivano dalla campagna, sono dei contadini che diventano operai e che si trovano a dover affrontare da soli questioni legate al diritto, insomma. Bene Tommaso, allora ci sarà modo di vedere questo lavoro e incontrare anche voi che lo avete realizzato, immagino. Certo, io sarò a Roma il 21 in questa occasione per presentare il film. Ormai il documentario gira da più di un anno e ormai è stato proiettato in Italia, all'estero, in molte sedi, comunque attraverso il nostro sito che è dreamworkchina.tv. È possibile seguire le proiezioni che continuiamo a fare in giro e che, insomma, con le quali cerchiamo di promuovere questo lavoro attraverso tutti i canali possibili, ecco. Bene, allora la proiezione sarà al laboratorio occupato autogestito Acrobax all'ex cinodromo qui a Roma il mercoledì 21 novembre. Tommaso, a risentirci per le prossime cose. Va bene, grazie, un abbraccio, ciao. Bene, siamo anche in chiusura, però volevo segnalare un paio di cose di cui avrei dovuto fare anche, potendolo, dei collegamenti telefonici, ma oggi non va veramente bene e allora li segnalo comunque io. Allora, sono due appuntamenti qui a Roma. per la per quanto riguarda una rassegna, c'è la rassegna Io sto con Volonté in tre luoghi differenti: al Nuovo Cinema Palazzo, al Cataclisma e ad Affabulazione ad Ostia, quindi tra Roma e Ostia. Tre giornate dal 16 al 18 novembre. E un altro appuntamento, sempre qui a Roma, Guarda Cric, Guarda Croc, una giornata di studio su Stanlio e Ollio presso l'archivio l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico qui a Roma, via Ostiense, il 19 novembre. E per quanto riguarda Visionari, l'appuntamento è a giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Vi ricordo i contatti per gli sms: 342 3574 357, per la posta elettronica visionari@ondarossa.info.